Fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. E ci siamo in diretta radio sabato sera in compagnia di una grandissima artista, perché hai dato già sfogo delle tue capacità. Ok, okay. Come ti chiami? Tatiana. Da dove vieni? Brescia. Da Brescia? E sì. Qualcuno si chiederà chi è Tatiana? Chi è Tatiana? Ma Tatiana è l'amica mia. Bravissimo. Esatto, sei mia amica, giusto? Certo. Che bello. Bellissimo. E pensa da casa, chi ci sta ascoltando in questo momento dirà: ma com'è Tatiana? Com'è? Com'è Tatiana? Com'è? Dimmelo tu, com'è Tatiana? Tatiana, posso dire gnocca? Anche. Anche, sei d'accordo? Certo. Sei d'accordissimo proprio? Okay. Ma come si dice? Allora, tra l'altro ricordiamo che Tatiana non sei italiana, giusto? No. Quindi si può dire la nazione? Moldava. Moldava. E in Moldavia come si dice gnocca? Che si dice? Come si dice? Non si dice? Non si dice. Cioè, allora, quelli della Moldavia, se vedono una come Tatiana, cosa dicono? Che bella. Ah, in italiano lo dicono, tra l'altro. È bellissima. Ah, bellissima. È frumoase. È frumoase. Ah, sei frumoase? Ecco, bravissima. Uno dice: oh, ma che frumoase. Dicono così? Ah, quindi i moldavi quando ti vedono dicono: oh, ma che frumoase. Proprio così? Certo, così. Ah, quindi quando magari passa uno, anche magari che, non so, guida il camion, che ti guarda e dice: oh, ma che frumoase. Guida il camion, guida e basta. Poi magari fa anche l'incidente guardandomi. A guardare la frumasse. Quindi non è che lui suona, oh, ciao, bella frumasse? No, bella no. Bella no, perché da noi non si usa bella e neanche ciao. Ah. Basta. Basta, dice. Ma anche da voi fanno i complimenti, tipo, non so, quello in macchina che guarda, dice: oh, che gnocca, no? Non si usa, no? Poco e niente. Dicono solo frumasse così. Basta, sì, magari ti salutano e finita lì. Ah, ma la differenza tra l'italiano e il moldavo, cioè i ragazzi italiani sono molto, come dire, appassionati di frumasse. Ok. Giusto? Anche i ragazzi moldavi hanno la stessa carica. Certo. Ah, sì, è uguale, quindi certo, tutto il mondo è paese. Certo, sono tutti ragazzi alla fine. Nel senso, Ma c'è lo stesso modo di corteggiare o cambia qualcosa? No, in teoria i moldavi sono più aggressivi, diciamo. Ah sì? Sì. Ah, quindi vengono lì, ti prendono, dicono: un po'. Dammi un bel bacio, frumasse. Bravissimo. Ah, proprio così, senza tanti giri di parole. Bravo, i vostri invece sono un po' più attenti. Sì? Un po' più delicati, però alla fine siete tutti maschi. Sì, no, è giusto, l'istinto. Bisogna seguire l'istinto. Però, cioè, quindi l'italiano è più corteggiatore, adulatore, ci gira un po' intorno, cerca un po' di... Sì, è molto falso anche. Ah, sì, pure? Non tutti, però parecchio. Ah, dici che ti stordiscono con le parole? Aspetto, direi. Ah, te la raccontano su, dici? Ma spiegami un attimo, allora. Ma voi donne non ce l'avete il radar per capire chi è il farfallone e chi non è il farfallone? Sì, mi sa che l'abbiamo proprio. Ma ci cascate sempre, però. Sì, ma per poco, Ah, proprio una cosa temporanea. Bravissimo. Ma il farfallone dura tanto. No, però il farfallone è giustamente, dice, l'importante è che ci caschi fino. Allora, il farfallone è uno che parla tanto. Uno che parla tanto non va bene, perciò basta, si aprono gli occhi. Quindi tu quando capisci che... Allora, secondo me è un segnale, così un consiglio anche per tutti gli le ascoltatrici. Bravissimo. Ecco, il segnale è quello che ti fa troppi complimenti facilmente, subito. Ragazze, comunque, chi parla troppo, non chi fa i complimenti, uno che si gonfia, uno che sa tutto, uno che fa tutto, è uno falso. Ah, ok? Quindi... Perché di solito uno che è normale, che è sincero, fa i fatti e non butta le parole. E basta. Quindi i consigli della nostra Tatiana dell'1:46 della notte sono: ragazze, se trovate l'adulatore, il chiacchierone, lasciatelo perdere, ragazze, lasciatelo perdere, perché valgono niente. Quindi è meglio il maschio che ti dice proprio così a singhiozzo i complimenti, però che avverti che è più sentito. Anche. Sì? Li hai trovati qualche volta? Trovati, però sono pochissimi. Sono rari. Sono pochissimi. Qual è il complimento tipico che ti fanno? Ma iniziamo con: sei bella. Sei bella. ciao, lo sai che sei bellissima, così ti no, dicono, mi dicono no. Ciao, sai che sei bella, e io rispondo no, sono bellissima. Perfetto, brava, brava, correggili, correggi. Ecco, un adulatore, ecco, numero ecco. Uno, numero ciao. Uno ha detto che sei bella e tu gli rispondi bellissima. No, sono bellissima. Ah, okay. Ma sono il doppio, Sei il top, proprio. Top. Ah, così. Mai proprio. Abbassarsi, ragazze, mai. Sempre sulla testa, è sempre numero uno. Tutte. Ma se sono tutte numero uno, Fa niente. Numero uno sempre. Tutte sul podio, al primo posto. Bravissimo. Secondo, terzo, non c'è. Sempre numero uno. Sei. Uno. Ah, uno. Uno. Ah, ok, ciao. Bravo. Sai che sei la numero uno? Bravo. io sapevo. Lo sapevo. Lo sapevo, sì. Immaginavo, ma che bello. E quindi c'è questa storia qua. Mentre i ragazzi moldavi non fanno troppi complimenti, ma sono più concreti. No, ci sono anche i moldavi che chiacchierano tanto, ci sono. Ah, ci sono? Certo. Ah, ok. Come qua, dappertutto. Poi le tecniche sono sempre le stesse, usciamo a bere qualcosa, bravo, usciamo. Bravo. Quello uguale dappertutto? Sì. Sì, ok. E poi altra cosa, cioè, secondo Tatiana, è giusto che il maschio ci provi la prima sera oppure no? Allora, diciamo di no. Sei interessato, ok? Se gli piaci, no. Se uno invece che vuole solo avere il suo, sì, si prova anche. La ragazza è cieca, ci casca anche. C'è sempre questo dilemma, no? Perché per i maschietti c'è questo dilemma se provarci o no la prima sera. Però è palese che se uno ti chiede di uscire è perché è interessato, è interessato. Certo, ovvio. È interessato, poi capire allora, esattamente a cosa è interessato. Io ti dico una cosa, se ti prova subito, sì? Non mi vede più. Ah, non ti vede più? No. Quindi consigli nel dubbio di non provarci la prima sera. No, ragazzi, state attenti, non provarti mai prima volta, nella prima sera, nella seconda, nella terza, perché se una ragazza con la testa vi mola subito. Invece se una ragazza seria va avanti dicendoti sempre di no. Sì, perché giustamente tu dici, beh, se è uscita la prima sera e si è trovata bene, uscirà anche la seconda, certo, di volta. Certo. E quindi lui fa bella figura non provarci la prima sera, perché comunque ha la chance per la seconda. Cioè, hai capito, no? Sì, certo che ho capito, però comunque ti dico, se il ragazzo è interessato veramente, non ci proverà mai la prima sera. Però può essere anche una persona falsa, ok? A farla un po' più lunga nella prima sera, nella seconda sera, nella terza sera, però alla fine non è interessato lo stesso. No, non è interessato. È uno stratega, questo è uno stratega. Conosci tutte le strategie allora. Pota, ragazzi. Ah, dici anche pota? Certo. Cavoli. Sono bresciana alla fine. Sì, bresciana. Penso che hanno sbagliato il paese quando sono nata. Sì, perché dalla Moldavia col pota non si era mai sentito. Quindi abiti a Brescia, giusto? Vivi a Brescia? Abito a Brescia. No, abito a San Zeno. A San Zeno, ok. Ecco, sei single, fidanzata? Sono singolissima. Ok, ricordiamo. Così per il pubblico che ci sta ascoltando, certo. Perché magari vorranno conoscere Tatiana. Chi è Tatiana? E quindi per conoscere Tatiana devono venire qui al convento di Leonardo. Bravissimi. Giusto? Sì. Invitali te, fai ragazzi, per conoscere Tatiana, se te la domanda chi è Tatiana, venite al convento venerdì sera, anche sabato sera, anche domani sera se non sbaglio, perché c'è una serata in bianco, tutti in bianco, perché si festeggia, non lo so cosa, che festa è? Festa in bianco, ecco. Festa in bianco, quindi, ecco. Ricordatevi che se venite a conoscere Tatiana, la prima festa andrete in bianco. Bravissimi, ecco. Però la seconda vai, magari sarà meglio. Sarà meglio. Tu Tatiana ci sarai domani sera? Penso di sì. Vestita di bianco? È un po' dura perché il bianco non è che te lo... Sì, vestita in bianco, se la festa in bianco, certo. Sì, per forza. Dacci un'anteprima di come ti vestirai. In bianco? Sempre in bianco? Sì. Un vestitino bianco, penso, basta, i pantaloni. Ieri i pantaloncini neri, oggi i pantaloni neri. Lunghi, ecco, okay. E domani i pantaloni bianchi e corti. No, domani vestitino, penso. Vestitino svolazzante, bianco. Bravo. Con sandaletti? Vediamo. Scarpa col tacco? Sorpresa. La scarpa sarà una sorpresa, ragazzi, signore e signori. Sorpresa. L'unica cosa che possiamo darvi come anteprima è che Tatiana domani sera indosserà un vestitino svolazzante, okay, bianco, di quelli giusti. Poi lei è bionda, e quindi bionda col bianco. Ah, vediamo come si trave. Quindi, tanto a parte che sono bellissima, domani esatto, sarò più bella del solito. È ancora più bellissima, ecco. E ricordatevi che se venite a conoscerla, poi non provateci, mi raccomando. Ok, no, non provateci mai. La prima sera, mai ragazzi, mai. Ditele solo che frumentista? Frumasse. Frumasse, che bella frumasse, ecco. Facciamo così, chi viene domani sera, se vede Tatiana, come tecnica d'abordaggio deve dire che bella frumasse. Che ragazza frumasse. Che ragazza frumasse, ecco. Va bene? Okay. Va bene, vi aspettiamo in tanti. Salutiamo la nostra simpaticissima e bellissima, giustamente, Tatiana. Ok. E se vi chiedete chi è Tatiana, è l'amica mia. Ok, bravo, grande. Ragazzi, vi aspettiamo domani tutti quanti. Io ci sono qua, ci sarò qua col mio amico Sandrino. Brava. Ci sei? Brava. Ci sono. Ok, per divertirci, perché qua si diverte veramente. E chi sa divertirci si diverte, ragazzi. Esatto. Perciò vi aspettiamo. Alla grande. Ok. Ciao Tatiana. Ciao.